Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Due giorni dopo, Andrea faceva colazione in compagnia di Galeazzo Secinaro a un tavolo del caffè di Roma. Era una mattinata calda. Il caffè era quasi deserto, immerso nell'ombra e nel tedio. I servi sonnecchiavano tra il ronzio delle mosche. Dunque, raccontava il principe Barbato, sapendo che a lei piace darsi in circostanze straordinarie e bizzarre, osai. Raccontava crudamente il modo audacissimo con cui aveva potuto prendere Elena. Raccontava senza scrupoli e senza reticenze, non tralasciando alcuna particolarità, lodando la bontà dell'acquisto al conoscitore. Egli si interrompeva di tanto in tanto per mettere il coltello in un pezzo di carne succulenta e sanguinante che fumigava, o per vuotare un bicchiere di vin rosso. La sanità e la forza emanavano da ogni sua attitudine. Andrea Sperelli accese una sigaretta. Ad onta dei conati, egli non riusciva a inghiottire il cibo, a vincere la ripugnanza dello stomaco agitato in sommo da un orribile tremolio. Quando il Secinaro gli versava il vino, egli beveva insieme il vino e il tossico. A un certo punto il principe, sebbene fosse assai poco sottile, ebbe un dubbio. Guardò l'antico amante di Elena. Questi non dava, oltre la disappetenza, altro segno esteriore di turbamento. Gittava nell'aria con pacatezza i nuvole di fumo e sorrideva del solito suo sorriso un po' ironico al narratore giocondo. Oggi ella verrà da me per la prima volta. Oggi? A casa tua? Sì. È un mese eccellente questo a Roma per l'amore. Dalle 3 alle 6 pomeridiane ogni buon ritiro nasconde una coppia. Infatti, interruppe Galeazzo, ella verrà alle 3. Ambedue guardarono l'orologio. Andrea chiese, vogliamo andarcene? Andiamo, rispose Galeazzo levandosi. Faremo la via condotti insieme. Io vado per fiori al babuino. Dimmi, tu che sai, quali fiori preferisce? Andrea si mise a ridere e gli venne alle labbra un moto atroce, ma disse incurantemente, le rose, una volta. Dinanzi alla barcaccia si separarono. La piazza di Spagna in quell'ora aveva già una deserta apparenza estiva. Alcuni operai restauravano un condotto e un cumulo di terra disseccato dal sole levavasi in turbini di polvere ai soffi caldi del vento. La scala della Trinità splendeva, bianca e deserta. Andrea salì, piano piano, soffermandosi ad ogni 2 o 3 gradini, come se trascinasse un peso enorme. Rientrò nella sua casa, restò nella sua stanza, sul letto, fino alle 2:15. Alle 2:15 uscì, prese la via Sistina, seguitò per le 4 fontane, oltrepassò il palazzo Barberini, si arrestò poco discosto innanzi agli scaffali di un venditore di vecchi libri, aspettando le 3. Il venditore, un omuncolo tutto rugoso e peloso come una testuggine decrepita, gli offerse i libri. Sceglieva i suoi volumi migliori, a uno, e glieli metteva sotto gli occhi, parlando con una voce nasale d'insopportabile monotonia. Mancavano pochi minuti alle 3. Andrea guardava i titoli dei libri e vigilava i cancelli del palazzo e udiva la voce del libraio confusamente, in mezzo al fragore delle sue vene. Una donna uscì dai cancelli, discese per il marciapiede verso la piazza, montò in una vettura pubblica, si allontanò per la via del Tritone. Andrea discese dietro di lei, prese di nuovo la via Sistina, rientrò nella sua casa. Aspettò che venisse Maria. Gittato sul letto si mantenne così immobile che pareva non soffrisse più. Alle 5 giunse Maria. Ella disse ansante: «Sai, io posso rimanere con te tutta la sera, tutta la notte, fino a domattina». Ella disse: «Questa sarà la prima e l'ultima notte d'amore. Io parto martedì». Ella gli singhiozzò sulla bocca, tremando forte, stringendoglisi forte contro la persona. «Fa che io non veda domani. Fammi morire». Guardandolo nella faccia disfatta, gli domandò: «Tu soffri? Anche tu pensi che non ci rivedremo più mai?» Egli provava una difficoltà immensa a parlarle, a risponderle. Aveva la lingua torpida, gli mancavano le parole. Provava un bisogno istintivo di nascondere la faccia, di sottrarsi allo sguardo, di sfuggire alle domande. Non seppe consolarla, non seppe illuderla. Rispose con una voce soffocata, irriconoscibile: «Taci!» Le si raccolse ai piedi. Restò lungo tempo con la testa sul grembo di lei, senza parlare. Ella gli teneva le mani sulle tempie, sentendogli la pulsazione delle arterie, ineguale e veemente, sentendolo soffrire. Ed ella stessa non soffriva più del suo proprio dolore, ma soffriva ora del dolore di lui, soltanto del dolore di lui. Egli si levò, le prese le mani, la trasse nell'altra stanza e la obbedì. Nel letto, smarrita, sbigottita, innanzi al cupo ardore del forsennato, ella gridava: «Ma che hai? Ma che hai?» Ella voleva guardarlo negli occhi, conoscere quella follia, ed egli nascondeva il viso perdutamente nel seno, nel collo, nei capelli di lei, nei guanciali. A un tratto ella gli si svincolò dalle braccia con una terribile espressione d'orrore in tutte quante le membra più bianca dei guanciali, sfigurata più che se ella fosse allora balzata di tra le braccia della morte. Quel nome! Ella aveva udito quel nome! Un gran silenzio le vuotò l'anima. Le si aprì dentro un di quegli abissi in cui tutto il mondo sembra scomparire all'urto di un pensiero unico. Ella non udiva più altro. Ella non udiva più nulla. Andrea gridava, supplicava, si disperava invano. Ella non udiva. Una specie di istinto la guidò negli atti. Ella trovò gli abiti. Si vestì. Andrea singhiozzava sul letto, demente. S'accorse che ella usciva dalla stanza. «Maria!» Gli giunse il rumore della porta, che si chiuse. La mattina del 20 giugno, lunedì alle 10, incominciò la pubblica vendita delle tappezzerie e dei mobili appartenuti a Sua Eccellenza il Ministro Plenipotenziario del Guatemala. Era una mattina ardente. Già l'estate fiammeggiava su Roma. Andrea, prima di risolversi a varcare la soglia di quella casa, vagò per marciapiedi, all'avventura, lungo tempo, provando una orribile stanchezza, una stanchezza così vacua e disperata che quasi pareva un bisogno fisico di morire. Entrò, salì le scale rapidamente, udì dal pianerottolo la voce del perito: «Si delibera!» Il banco dell'incanto era nella stanza più ampia, nella stanza del Buddha. Intorno s'affollavano i compratori. Erano per la maggior parte negozianti, rivenditori di mobili usati, rigattieri. Gente bassa. Un cattivo odore si spandeva nell'aria calda, emanato da quegli uomini impuri. «Si delibera!» Andrea soffocava. Girò per le altre stanze, ove restavano soltanto le tappezzerie sulle pareti e le tende e le portiere. Trovò una camera semicircolare. Le mura erano di un rosso profondo, nel quale brillavano disseminati alcuni guizzi d'oro e davano immagine d'un tempio e d'un sepolcro. davano immagine di un rifugio triste e mistico, fatto per pregare e per morire. Dalle finestre aperte entrava la luce cruda, come una violazione. Apparivano gli alberi della villa Aldobrandini. Egli ritornò nella sala del perito. Sentì di nuovo il lezzo. Volgendosi, vide in un angolo la principessa di Ferentino con Barbarella Viti. Le salutò avvicinandosi. «Ebbene, Ugenta, che avete comprato?» «Nulla». «Nulla? Io credevo invece che voi avreste comprato tutto». «Perché mai?» «Era una mia idea romantica». La principessa si mise a ridere. Barbarella la imitò. «Noi ce ne andiamo. Non è possibile rimanere qui con questo profumo. Addio, Ugenta. Consolatevi». La vendita procedeva rapidamente. «Uno, due, tre». Il colpo di martello gli suonava sul cuore. Gli dava un urto doloroso alle tempie. Egli comprò il Buddha, caro a Maria, un grande armario, qualche maiolica, qualche stoffa. A un certo punto udì come un suono di voci e di risa femminili, un fruscio di vesti femminili verso l'uscio. Si volse. Vide entrare Galeazzo Secinaro con Elena e poi la contessa di Lucoli, Gino Bomminaco, Giovannella Daddi. Quei gentiluomini e quelle donne parlavano e ridevano forte. Egli cercò di nascondersi, di rimpicciolirsi tra la folla che assediava il banco. Tremava al pensiero d'essere scoperto. Le voci, le risa gli giungevano di sopra le fronti sudate della folla, nel calor soffocante. Per ventura, dopo alcuni minuti, i gai visitatori se ne andarono. Egli si aprì un varco tra i corpi agglomerati, vincendo il ribrezzo, facendo uno sforzo enorme per non venir meno. Aveva la sensazione in bocca come di un sapore indicibilmente amaro e nauseoso che gli montasse su dal dissolvimento del suo cuore. Gli pareva descire dai contatti di tutti quegli sconosciuti come infetto di mali oscuri e immedicabili. La tortura fisica e l'angoscia morale si mescolavano. Quando egli fu nella strada, alla luce cruda, ebbe un po' di vertigine. Con un passo malsicuro si mise in cerca di una carrozza. La trovò sulla piazza del Quirinale. Si fece condurre al Palazzo Zuccari. Ma verso sera, una invincibile smania l'invase di rivedere le stanze disabitate. Salì di nuovo quelle scale. Entrò, col pretesto di chiedere se gli avevano i facchini portato i mobili al palazzo. Un uomo rispose: «Li portano proprio in questo momento. E là dovrebbe averli incontrati, signor Conte». Nelle stanze non rimaneva quasi più nulla. Dalle finestre prive di tende entrava lo splendore rossastro del tramonto. Entravano tutti gli strepiti della via sottoposta. Alcuni uomini staccavano ancora qualche tappezzeria dalle pareti, scoprendo il parato di carta a fiorami volgari, su cui erano visibili qua e là i buchi e gli strappi. Alcuni altri toglievano i tappeti e li arrotolavano, suscitando un polverio denso che riluceva nei raggi. Onde costoro canticchiava una canzone impudica, e il polverio, misto al fumo delle pipe, si levava fino al soffitto. Andrea fuggì. Nella piazza del Quirinale, dinanzi alla reggia, suonava una fanfara. Le larghe onde di quella musica metallica si propagavano per l'incendio dell'aria. L'obelisco, la fontana, i colossi grandeggiavano in mezzo al rossore e si imporporavano come penetrati d'una fiamma impalpabile. Roma immensa, dominata da una battaglia di nuvoli, pareva illuminare il cielo. Andrea fuggì, quasi folle. Prese la via del Quirinale, discese per le quattro fontane, rasentò i cancelli del Palazzo Barberini, che mandava dalle vetrate balini. Giunse al Palazzo Zuccari. I facchini scaricavano i mobili da un carretto, vociando. Alcuni di costoro portavano già l'armario su per la scala. Egli entrò. Come l'armario occupava tutta la larghezza, egli non poté passare oltre. Seguì, piano piano, di gradino in gradino, fin dentro la casa. Sono Maurizio Cucchi. Abbiamo ascoltato la parte finale del Piacere, e proprio il finale ha qualche cosa effettivamente di straordinario, un finale sorprendente se vogliamo, ma al tempo stesso anche semplicissimo e straordinariamente plausibile. Un finale nel quale l'autore manifesta chiaramente la sua acutezza, la sua straordinaria intelligenza, facendo ruotare un po' su se stesso l'ascoltatore e il lettore. Andrea ha questo lapsus, abbraccia Maria e pronuncia il nome di Elena, una cosa tutto sommato non straordinaria e proprio per questo, ripeto, ancora più efficace e plausibile. In qualche modo è innamorato Andrea di Elena, che non può più possedere? A modo suo sicuramente sì. D'altra parte viviamo in un contesto, quello appunto che D'Annunzio ci propone per il suo magro eroe, in un contesto particolarmente fatuo, in un contesto nel quale la falsificazione, la frivolezza predominano, e tanto è vero che, come avremo sentito, come avrete sentito all'inizio, il personaggio viene chiaramente descritto come un ipocrita anche in qualche modo nei propri confronti, mente anche in fondo rispetto a se stesso, vuole essere un personaggio che punta al sublime, che si muove verticalmente nella direzione dell'arte e in fin dei conti pratica un'esistenza di mediocri traffici e di amori non sempre straordinariamente sublimi. D'altra parte vediamo anche che Andrea viene definito un insicuro, o perlomeno un personaggio nel quale la volontarietà delle azioni non prevale. C'è quindi una involontarietà dichiarata dall'autore nel comportamento di Andrea. Dunque è un esteta Andrea, ma probabilmente è passato alla storia della letteratura con questo carattere, ma in fin dei conti lo trovo soprattutto un frivolo in balia delle circostanze ambientali e quindi neppure straordinariamente sottolineabile come esteta, semplicemente. Addirittura D'Annunzio parla di mostro, anche questo mi sembra un po' esagerato. È chiaro, l'istanza estetica della sua condizione è quella di vivere alla ricerca del piacere, però a questa ricerca del piacere si sovrappone continuamente questo desiderio di arte. In certi momenti Andrea Sperelli ci fa pensare a uno sciocco provvisto di ingegno. Può sembrare un ossimoro, può sembrare una contraddizione, può sembrare forse anche un errore dello stesso grande autore che lo ha creato. D'altra parte compie delle azioni in fin dei conti di straordinaria banalità, eppure è autore di poesie che ci vengono addirittura proposte sulla pagina, molto interessanti, che dimostrano una capacità di gestione dei materiali letterari di altissimo livello. E naturalmente abbiamo visto, a proposito del suo muoversi estetizzante, la sua dichiarazione che in qualche modo è centrale: il verso è tutto, il verso è tutto. Nella imitazione della natura nessun strumento d'arte è più vivo, agile, acuto, vario, multiforme, plastico, obbediente, sensibile, fedele, più compatto del marmo, più malleabile della cera, eccetera, eccetera. L'avete già sentito, è un passaggio cruciale. Quindi si comporta in una maniera sostanzialmente fatua e banale, ma ha dall'altra parte, nel risvolto della medaglia, che si spera poi nel suo seguito possa avere una prevalenza, una evidente predisposizione naturale per l'arte. Nell'insieme abbiamo visto che le vicende sono piuttosto poche. Sono piuttosto poche e io vorrei ricordare due momenti che mi sono parsi narrativamente piuttosto interessanti, efficaci e che dimostrano anche una tecnica, una capacità anzi dell'autore di entrare nella dimensione tecnica di alcune situazioni. Mi riferisco alla corsa dei cavalli e al duello, dove evidentemente per conoscenze dirette l'autore riesce a proporci qualche cosa che a volte è difficile capire perché noi non sempre siamo degli esperti di scherma o di ippica. Direi che uno degli aspetti più belli è però nell'insieme la presentazione quasi innamorata o decisamente innamorata della città. La Roma che emerge da questo libro è molto bella, dice: Roma appariva ad un color d'ardesia molto chiaro, con linee un po' indecise, come in una pittura di Lavata sotto un cielo di Claudio Lorenese, eccetera, eccetera. Molto efficace questa descrizione. La parte sana e vera, cioè di una città all'interno della quale si muove, nella complessità bizzarra, no, delle sue vicende, una società insignificante in fin dei conti e che compie tutto sommato delle azioni da volgare fannullone nella maggior parte dei casi. Vorrei concludere dicendo che se alcuni aspetti strutturali e se il carattere del protagonista sono stati individuati molto spesso come quello appunto di un individuo dedito essenzialmente al piacere, la qualità dell'opera si configura però anche nella sua ricchezza di sfumature. Tutto è molto più complesso e proprio dalla lettura tra musica e comportamenti anche a spesso sfumanti, imprevedibili del personaggio si realizza proprio l'importanza di un'opera che ha nella complessità non dichiarata un elemento della sua evidente qualità e la sua possibilità di arrivare ancora a noi oggi. Piero Baldini ha letto Il piacere di Gabriele D'Annunzio, postfazione di Maurizio Cucchi, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it